Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Anche per quanto riguarda quest'oggi, grazie Edo. Grazie per aver accompagnato fin qua chi ascolta Eclettica tutti i giorni, dalle 19 alle 20 sulle frequenze di Rock FM. Una settimana, quella di Eclettica, in cui gli incipit sono estratti da pochissimi libri di un solo autore. Sono incipit molto, molto lunghi, che vengono in pratica spalmati sull'intero volume di ogni giorno. Mi trovo in un parcheggio a Leeds quando dico a mio marito che non voglio più stare con lui. David non è lì con me nel parcheggio, è a casa, a curare i bambini, e io l'ho chiamato soltanto per ricordargli che dovrebbe scrivere due righe per la maestra di Molly. L'altra cosa mi è come sfuggita, un errore, ovvio. Evidentemente, e con mia grande sorpresa, sono il tipo di persona capace di dire al marito che non se la sente più di stare con lui. Ma non pensavo davvero di essere capace di dire questa cosa da un cellulare, da un parcheggio. Adesso, è chiaro, la considerazione che avevo di me stessa andrà rivista. Posso definirmi una che non dimentica i nomi, per esempio, perché mi sono ricordata nomi in migliaia di occasioni e li ho dimenticati solo in uno o due casi, ma per la maggior parte delle persone le conversazioni di fine matrimonio si svolgono una volta sola, se va bene. Se scegli di condurre la tua da un cellulare, da un parcheggio di Leeds, allora non puoi certo pretendere che non sia da te, così come Lee Harvey Oswald non poteva certo pretendere che sparare ai presidenti non fosse da lui. A volte basta un gesto per essere giudicati. Questo era l'incipit di Come diventare buoni, di Nick Hornby. You haven't told me how we're going to get her back. Where is she? That's the simple part, dude. We make the handoff, I grab one of them, beat it out of them. Huh? Yeah. That's a great plan, Walter. That's fucking ingenious, if I understand it correctly. It's a Swiss fucking watch. That's right, dude. The beauty of this is its simplicity. Once the plan gets too complex, everything can go wrong. There's one thing I learned in Nam. Hello, just a thought. You're just a thought. Are you here to confuse me or amuse me? If you're here to amuse me, universalmente conosciuto per essere stato il responsabile della colonna sonora di Donnie Darko, film partito in sordina ma poi diventato assolutamente di culto, soprattutto nella versione al pianoforte di Mad World dei Tears for Fears, poi affidata alla voce di Gary Jules. Ecco, Michael Andrews è l'artista in questione. Dal suo ultimo album Hand on String ce lo siamo appena ascoltati all'interno di Eclettica con Just a Thought, e invece Eclettica che si era aperta quest'oggi con Get Triggered, un estratto da quello che è il nuovo album dei marchigiani Laundrette, ed Eclettica che invece prosegue con The Ladybug Transistor assieme a Jens Lehmann che aiuta alle voci in questa Here Comes the Rain. Here comes the rain. tardi, nella camera d'albergo, quando non riesco a prendere sonno, e questa è almeno in parte una consolazione, perché anche se sono diventata la donna che manda all'aria il matrimonio da un parcheggio, dopo ho almeno la decenza di agitarmi e di menarmi. Riprendo la trama della conversazione, con tutti i dettagli che riesco a ricordare, cercando di capire come abbiamo fatto ad arrivare da lì, l'appuntamento di Molly dal dentista, a là, il divorzio imminente, in 3 minuti. 10 facciamo. Per poi impantanarmi in una meditazione ininterrotta, da 3 del mattino, su come abbiamo fatto a finire da lì, l'incontro a un ballo del college nel 1976, a là, il divorzio imminente, in 24 anni. A onor del vero, la seconda parte di questa mia riflessione dura così a lungo perché 24 anni sono tanti e ci sono una miriade di pezzi che mi ritornano in mente, piccoli dettagli narrativi che in realtà non c'entrano poi molto con la storia. Se le mie riflessioni sul nostro matrimonio fossero state trasposte in un film, i critici avrebbero detto che era tutto contorno, che non c'era trama e che si sarebbe potuto sintetizzare così. 2 persone si incontrano, si innamorano, hanno dei figli, cominciano a litigare, diventano grassi e irritabili, lui, annoiati, dispirati e irritabili, lei, e si separano. E non avrei avuto niente da ridire. Non siamo niente di speciale. Questo era ancora l'incipit di Come diventare buoni di Nick Hornby. Who's sitting on $1 million? Am I wrong? Walter. Who's got $1 million sitting in the trunk of our car? Our car, they got? Walter. My dirty undies. My fucking whites. Say, dude, where is your car? Who's got your undies, Walter? Where's your car, dude? You don't know, Walter. Thank you.